like I'm here to steal. So I dip back out into a cloud of tattoos, pierced body parts and colorful hairdos. And I question, did Babylon resemble this? Are we getting any closer to the end of the list? A sensuous kiss placed on apocalypse. We teach them how to make a fist but not to resist. And I'm wondering, how do we find this position? People are people and I still love them. Mediaset. Approfondimento settimanale sul lavoro Metropoli Controllo. Un programma di Cristiano Muccini e Andrea Bavin in collaborazione con Amisnet. Un saluto a tutte e tutti dalla redazione di Mediaset. Siamo arrivati con la puntata di oggi alla puntata numero 10. Parleremo di diritti sindacali nei posti di lavoro, faremo un breve accenno alla Costituzione, all'articolo 39 appunto della Costituzione italiana sul diritto di rendersi appunto in sindacato, dell'organizzazione sindacale che è appunto del lavoratore è libera. E avremo in collegamento con noi un esponente del comitato esecutivo della Confederazione dei Cobas, che proprio per questo sta attuando da alcuni giorni uno sciopero della fame, e concluderemo con un parere legale circa il diritto di sciopero sempre nei posti di lavoro. In studio alla voce Cristiano e Andrea in regia. Tutto svanisce in una nebbia. Il passato è soppresso e la soppressione viene dimenticata. Il passato è soppresso. La bugia diventa verità, la soppressione viene. Per poi diventare di nuovo bugia. La bugia diventa verità, la soppressione viene. Per poi diventare di nuovo bugia. La bugia diventa verità, la soppressione viene. Per poi diventare di nuovo bugia. Allora, l'articolo 39 della nostra Costituzione cita testualmente che l'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali. Secondo le norme di legge è condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica, possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Ma anche se vediamo che organizzarsi sindacalmente è un diritto, appunto un articolo della nostra Costituzione, andiamo a vedere nei fatti che non è proprio così. È iniziato il 18 aprile, infatti, davanti alla sede nazionale dell'Unione, a Piazza Santi Apostoli a Roma, lo sciopero della fame a tempo indeterminato di due membri dell'esecutivo nazionale della Confederazione Cobas, che mira a suscitare la massima attenzione su un tema cruciale per la democrazia. Come restituire appunto ai lavoratori, alle lavoratrici e a tutte le organizzazioni sindacali i diritti di rappresentanza, di trattativa, di libertà, di assemblea nei luoghi di lavoro, che in questi anni sono stati annullati o ridotti ai minimi termini da governi sia di centrodestra che di centrosinistra, con l'instaurazione di un vero e proprio regime monopolistico di CGIL, CISL e UIL, quasi sul modello degli ex sindacati di Stato dell'Est europeo. Allora abbiamo in collegamento con noi Mimmo Teramo dell'esecutivo nazionale della Confederazione dei Cobas. Abbiamo già detto che dal 18 di aprile ci sono due membri dell'esecutivo che sono in sciopero della fame per i diritti sindacali e democratici. Allora Mimmo, innanzitutto un saluto a te. Un saluto a tutti e a tutti. Ti volevamo chiedere, abbiamo cominciato citando l'articolo 39 della nostra Costituzione che brevemente dice che la libertà di organizzarsi sindacalmente è un po' una prerogativa di tutti. Effettivamente così non è, questo lo vediamo anche dalla tua protesta, dalla tua azione appunto di rivendicazione almeno dei diritti minimi. Appunto ti volevamo chiedere quali sono le rivendicazioni base di questa campagna che state portando avanti ormai da più di 20 giorni. Noi abbiamo iniziato una campagna sulla questione dei diritti sindacali, perché appunto è un'oscenità che in Italia, al di là di quell'articolo della Costituzione, di fatto non è permessa la vera libertà di associazione e di organizzazione nei luoghi di lavoro. E sarebbe necessaria in realtà una legge sulla rappresentanza a tutto campo, perché nel privato di fatto, a differenza del pubblico, non esiste nessuna norma che stabilisce chi rappresenta chi, quando un contratto è valido. È capitato per esempio nei metalmeccanici che FIM e WILM hanno firmato un contratto senza la firma neanche non dei Cobas ma della FIOM, e comunque il sindacato più rappresentativo, per dire che in realtà datori di lavoro e sindacati di Stato molto spesso decidono loro i contenuti dei contratti senza neanche portarli ai voti dei lavoratori, e nessuno può dire nulla perché non esiste una norma per stabilire se quei sindacati che hanno firmato sono rappresentativi dei lavoratori che subiscono quel contratto. Ovviamente un iter di una legge sulla rappresentanza è lungo e noi non crediamo che si possa ottenere cotto e magnato, però pensiamo che questo governo, al di là di quando si sciacqua la bocca sui diritti di democrazia nel paese, su appunto la democrazia, quando si rischiavano i livelli di autoritarismo con Berlusconi, ma in realtà sono la blindatura della democrazia è ugualmente pesante, se non di più, con il centro-sinistra, quando stringe poi con CGIL e UIL tutti i posti di lavoro senza permettere una libertà effettiva. Quindi dicevamo, è immediata una iniziativa che deve essere mirata a dare a tutti e tutte i lavoratori il diritto dell'assemblea. Oggi nei posti di lavoro di fatto possono indire l'assemblea solo le organizzazioni sindacali firmatari di contratto, per tutte CGIL, CISL e UIL, e poi in coda anche i sindacati autonomi CISL e UGL e qualche altra cosa in giro per l'Italia. Non possono indire liberamente le assemblee tutte le vestiture dei sindacati di base, perché la Confindustria e il governo danno un'interpretazione per la quale le RSU ha diritto di dire l'assemblea nella sua maggioranza, quindi solo se hai una maggioranza delle RSU elette in quel posto di lavoro hai diritto a poter fare l'assemblea. Questo significa che nei fatti oggi solo CGIL e CISL e UIL indicano l'assemblea in quanto firmatari di contratto, e poi le indicano come RSU perché con gli accordi interconfederali del 93 si sono garantiti che, per quanto vada bene e sia rappresentativo il Cobas in quel posto di lavoro, loro hanno diritto comunque al 33% degli eletti all'RSU, e quindi è praticamente impossibile e ottenere la maggioranza delle RSU per un'organizzazione di base. Guarda, vorrei che ci spiegassi in maniera da addetto ai lavori questo problema nel settore privato del 33%, ossia delle quote garantite. Allora, tornando alla cosa che avevo detto prima, non esiste una legge sulla rappresentanza per il mondo del privato, mentre nel pubblico esiste una legge che stabilisce anche l'elezione delle RSU, e essendo una legge dello Stato lì non hanno potuto inserire questa prerogativa del 33% di diritto ai firmatari di contratto, mentre nel privato le RSU in realtà si fanno a seguito di un accordo privato di fatto tra Confindustria e CGL is the will, dove nel 93 misero questa norma gabella in cui dividono le RSU in due parti, una parte del 66% degli eleggibili che va a libera elezione, proporzionalmente ai voti ricevuti da ogni lista, mentre il 33% degli RSU vengono spartiti solo tra i sindacati firmatari di contratto. Questo matematicamente che ci dice? Che una struttura che anche prendesse il 60% dei voti in quel posto di lavoro sarebbe comunque minoranza e quindi privata di tutta l'agibilità, come dicevo prima, in particolare dell'assemblea. E ovviamente questa è una norma che insomma non è peggio dell'apartheid di prima di Nelson Mandela, insomma non è assolutamente pensabile in termini democratici l'idea che ci sia il voto di un lavoratore che esprime la preferenza per i COBAS che valga un terzo in meno di quello che esprime un lavoratore aderente a CGL CISL e UIL. È una cosa discriminatoria, antidemocratica, anticostituzionale, però essendo un accordo tra le parti e non una legge, di fatto ancora nessuno riesce a scalfire questo elemento. Fin tanto che non ci sarà una legge sulle RSU anche nel privato, di fatto questa cosa non mi sembra che ci sia nell'orizzonte una modifica. Questo chiaramente specifica chiaramente quello che volevate dire sul comunicato facendo riferimento agli ex sindacati di Stato dell'Est europeo, chiaramente forse sì. La sia CGL che CISL e UIL mai come oggi rappresentano quella che è l'idea di un sindacato corporativo. Allora in generale chiunque sta nei posti di lavoro può toccare con mano il distacco siderale tra quelle che sono le istanze di lavoratrici e lavoratori con quelle espresse dai sindacati confederali. E per questo questi sindacati, al pari dei sindacati dell'Est, quando ci stavano i regimi pseudo-comunisti, mantengono il loro monopolio, la loro maggioranza nei posti di lavoro, perché di fatto impedita la possibilità ad altri soggetti di fare attività sindacale, se non con grandissima discriminazione, con grandissima pressione, con grandissime minacce, e quindi in modo da far desistere molto spesso dopo un anno di tentativi di vedere riconosciuti i propri normali diritti di agibilità sindacale molte lavoratrici e lavoratori quando si organizzano autonomamente, azzerando poi di fatto qualsiasi forma di dissenso che esca dal loro universo, chiaramente azzerando qualsiasi forma di dissenso, ma non solo, cercando anche di tappare la bocca del tutto. Esemplare è quello che sta succedendo nel settore delle telecomunicazioni, dove i sindacati confederali hanno fatto i peggiori accordi in termini contrattuali, in termini di firma per cassa integrazione in Telecom per esempio, piuttosto che gli ultimi accordi sui call center in giro per l'Italia. Eppure, nonostante che abbiano questa possibilità di avere di diritto del 33%, nonostante che di fatto vengono impedite le assemblee ai nostri rappresentanti RSU, quindi di fatto ogni giorno quotidianamente ci troviamo a lottare contro i soprusi dell'azienda con le mani legate e con il bavaglio alla bocca, e questi signori, non contenti di questa fortissima prevalenza, stanno togliendo anche tutto il resto che abbiamo conquistato. A Vodafone di Napoli è stata presentata una lista ultra rappresentativa, tutti gli RSU più rappresentativi e più combattivi dello scorso mandato che erano nelle liste di CGL e CISL hanno rotto con i confederali e hanno presentato una lista che denominata RSU Libere Cobas, e questi si sono inventati la scusa che mancava la liberatoria per i dati personali, per il trattamento dei dati personali nella raccolta delle firme a sostegno della lista, e hanno bocciato la presentazione della nostra lista. In un contesto in cui in nessuna elezione RSU del privato è stata mai richiesta un elemento del genere, e in nessuna elezione del pubblico impiego, milioni di persone che hanno fatto l'elezione dell'RSU e dove anche i sindacati confederali sono obbligati a presentare le liste in sostegno della propria lista, nessuno mai ha messo nella propria comunistica, neanche CGL e UIL, la clausola di liberatoria per il trattamento dei dati personali, anche perché la paura dei nostri compagni di Napoli della Vodafone era che quella richiesta là fosse foriera della successiva presentazione della lista dei sostenitori della lista dei Jobas all'azienda, per poi andare a intimidire uno a uno i 120 lavoratori, oltre il 10% di quelli aventi diritto al voto, che avevano sostenuto la lista. Certo, quindi... E l'altra cosa che si chiede, quindi per brevità quello che tu mi chiedevi prima, noi diciamo che comunque ci deve essere un intervento immediato per ripristinare uno il diritto dell'assemblea, perché l'assemblea è un diritto dei lavoratori, le 10 ore anni sono dei lavoratori, non delle organizzazioni sindacali, per cui ogni lavoratore ha la capacità e l'autonomia e deve essere libero di decidere all'assemblea di chi andare, non essere obbligato ad andare a quella dei confederali o dei firmatari di contratto. Due, la questione della trattativa sindacale, che nel pubblico impiego è prevista per tutte le organizzazioni, nel privato la fanno soltanto i firmatari di contratto nazionale, e questo di fatto impedisce la possibilità di organizzarsi, di fare iscritti e avere le stesse agibilità di tutti gli altri. L'iscrizione anche per i lavoratori che vanno in pensione, che per 20 anni sono stati iscritti magari ai Gobas, nella scuola o negli altri settori del pubblico impiego, e che una volta che lo vanno in pensione vengono impediti dall'aderire ancora ai Gobas, perché per i pensionati l'INPS fa la trattativa soltanto ai sindacati che stanno dentro al CNEL, e il CNEL è il coordinamento, il Comitato Nazionale sul Lavoro, e di fatto vengono nominati da un decreto governativo i rappresentanti in seno al CNEL. L'altra cosa che è bene sottolineare è che, non contenti appunto di tutto ciò, stanno ulteriormente chiudendo anche addirittura sulle bacheche sindacali. Negli ultimi tempi, sempre nel settore delle telecomunicazioni, sono state fatte accordi in aziende nazionali importanti come H3G, Telecom e Vodafone, con le controparti tra CGL, CGIL e datori di lavoro, per istituire un coordinamento nazionale dell'RSU, dove non far entrare ovviamente quelli che non sono firmatari di contratto, e quindi impedire di fatto poi l'agibilità che compete alla RSU propria della trattativa in sede aziendale, delle informative in sede aziendale, vi dicendo, ma delegandole soltanto al coordinamento nazionale, e l'uso delle bacheche elettroniche che sono state introdotte nell'ultimo rinnovo contrattuale, che anche quelle hanno limitato ai firmatari di contratto, anzi ancora in forma peggiore, queste bacheche elettroniche, bacheche sindacali elettroniche, sono di competenza o dei regionali dei contratti, oppure della RSU appunto a maggioranza con lo stesso schema dell'assemblea. Questo che significa che non solo viene impedito all'RSU dei COBAS di affiggere nella bacheca elettronica i propri comunicati, ma viene impedito anche a quelle RSU magari in rotto di collisione interna a CGL e UIL, che non possono affiggere nella bacheca sindacale se non hanno il parere positivo della segreteria regionale. Verti, sì. Quindi di fatto un annientamento di qualsiasi forma di democrazia delegata dal basso, cioè elettiva, tra i lavoratori. Mimmo, noi ti ringraziamo, sei stato molto esauriente, ti auguriamo un in bocca al lupo per questa lotta e un risentirci a presto. Un saluto a tutti. Grazie. Ciao. Ciao. Allora siamo in collegamento con Yvonne, un legale dell'Associazione Donne, Diritti e Giustizia. Abbiamo parlato di democrazia nei posti di lavoro, diritti sindacali e rappresentanza. Appunto con te sappiamo che hai esperienza circa quanto accade nei posti di lavoro per quanto riguarda diritti di assemblea, di sciopero e quant'altro. Se ci racconti brevemente la tua esperienza come legale in questo senso. Allora, salve, buonasera. Dunque, quello che posso dirvi a proposito di uno strumento destinato a garantire l'effettività del principio della libertà sindacale e dei diritti, tutti i diritti previsti dai lavoratori nei luoghi di lavoro, quindi a livello aziendale, è l'articolo 28 dello Statuto dei lavoratori e la repressione della condotta antisindacale, appunto. Si sono verificati e si continuano a verificare dei problemi interpretativi di questa norma, laddove consente la legittimazione attiva, quindi diciamo introdurre ricorsi, appunto ex articolo 28, solo ai sindacati diciamo maggiormente rappresentativi o almeno che abbiano la possibilità della contrattazione collettiva. Questo purtroppo limita grandemente per esempio ai comitati di base o comunque sindacati autonomi, diciamo così, un'effettiva tutela di tutti i diritti sindacali riconosciuti agli altri. Il problema interpretativo si fonda su una letterale interpretazione che si fa della norma, laddove legittima solamente quei sindacati che abbiano una rilevanza nazionale. Allora ovviamente le aziende si schierano dal lato interpretativo che ricondurrebbe il carattere della nazionalità solo a quei sindacati maggiormente rappresentativi, eccetera, come dicevo prima. Il tentativo invece nostro, a tutela dei sindacati minoritari, è quello proprio di far valere invece il carattere della nazionalità anche laddove non si parli di una grande organizzazione come quelle CGL, CISL e UIL in sostanza. E purtroppo numerose interpretazioni invece sono state di diverso avviso e a tutt'oggi ci ritroviamo comunque alcune pronunce dei giudici che rigettano il tentativo di ricorso sia in primo grado che in Cassazione, insomma. Quindi brevemente, visto che siamo in conclusione, l'orientamento della giurisprudenza non sempre a favore? No, non sempre a favore, anche se la Corte Costituzionale nel lontano 88 si era diversamente pronunciata e diceva appunto che l'articolo 28 è l'espressione della garanzia nostro ordinamento del libero sviluppo testuale di una normale dialettica sindacale, perché il suo impiego presuppone una dimensione organizzativa che non può essere legata a un'applicazione a livello confederale, intercollegiale, nella contratti collettivi, perché deve consentire concreti spazi di operatività anche alle organizzazioni che dissentono dalle politiche sindacali maggioritarie. Maggioritarie, certamente. Yvonne, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. A presto. Buonasera. Allora, con questo andiamo a concludere la 10ª puntata, dando appuntamento alla prossima settimana. Un saluto a tutte e tutti da Mediaset. When they kick at your front door, how are you gonna come? With your hands on your head or on the trigger of your gun? When the law break in, how are you gonna go? Shot down on in death row. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer to whoa, the guns of Brixton. The money feels good, your life you like it well, but surely your time will come as in heaven as in hell. We'll be right back. sun. This game is called surviving. Like the end of the harder they come, you know it means no mercy. They call him with a gun. No need for the Black Mariah. Goodbye to the Brixton sun. You can crush us, you can bruise us, but you'll have to answer too. Your front door, how are you gonna come with your hands on your head or on the trigger of your gun? You can crush us, you can bruise. Surviving, heaven as an hell. You can crush us, you can bruise us.